TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il ministro Piantedosi a Gorizia per il taglio del nastro della nuova questura sul ripristino di Schengen dice solo quando ci saranno le condizioni, un accorgimento aggiunto non privo di effetti importanti. Bandiere palestinesi e dell'USB e qualche fumogeno davanti al varco per il porto di Trieste durante il presidio indetto dal sindacato di base per chiedere lo stop all'uccisione dei civili a Gaza e nella Cisgiordania. Almeno un migliaio di partecipanti che hanno bloccato l'accesso allo scalo, deviando i tir. Il cardinale Zuppi, presidente della CEI, aprirà questo pomeriggio a Gorizia i lavori del Consiglio Episcopale. Martedì è previsto un incontro dei vescovi con le conferenze dei vescovi sloveni e croati e una veglia di preghiera per la pace in piazzale Transalpina. Nasce il primo festival del teatro delle lingue minoritarie, laboratori per attori in partenza da oggi, spettacoli e convegni al via dal 30 settembre a Udine, Gorizia e Nova Gorizia. Dai laboratori di lettura e scrittura in carcere è nato un libro di racconti, ma soprattutto è cresciuta l'autostima delle detenute che hanno partecipato al progetto. Vela, gli equipaggi di 16 paesi che partecipano al mondiale Melges 24 sono già all'Adriaco di Trieste, dove questo pomeriggio è prevista la practice race prima dell'avvio del campionato mondiale con le prove ufficiali che partono domani. Buongiorno da Livia Liberatore e Nada Cioc per questa seconda edizione del giornale radio. Con l'inaugurazione della questura di Gorizia è iniziata la lunga giornata del ministro Piantedosi in regione. Il capo del Viminale nel pomeriggio presenzierà nella prefettura di Pordenone alla riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Quindi si sposterà a Trieste, dove nella sede della regione incontrerà il presidente della regione Fedriga per la firma di un protocollo d'intesa sulla sicurezza. A Gorizia il ministro è stato sollecitato anche sul ripristino dei controlli ai confini. Sentiamo. Oggi la questura, domani forse il reparto mobile, la ex Celera e cui agenti ogni volta devono arrivare da Padova. Su questo è ottimista il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, che ha già individuato due possibili sedi per il reparto mobile e ne ha parlato con il ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, presente alla cerimonia di inaugurazione della nuova questura goriziana. Parliamo di 150-200 posti di lavoro, sono importanti, significa 150-200 famiglie in più nella nostra città. Chiedono un rinforzo degli organici, sindacati di polizia. Il ministro rassicura. Questo territorio sarà particolarmente riguardato perché, come ho detto prima nel discorso, è un territorio di frontiera, è un territorio molto importante, anche di valenza strategica per noi, e quindi dedicheremo una particolare attenzione. Nessun hotspot per migranti su questo territorio che è già oberato, spiega Piantedosi. Quanto alla reiterata richiesta del sindaco Ziberna di rivedere la sospensione di Schengen, il ministro prende tempo. Vediamo, quando le condizioni per cui è stata adottata questa decisione saranno superate dai fatti e dagli eventi, lo faremo volentieri, ma intanto si sta rivelando un accorgimento fatto d'accordo anche con gli sloveni, anche con i croati, che non privo di effetti molto importanti. Il governo sta cercando il canale di finanziamento giusto per i rimborsi ai comuni per le spese affrontate per l'ospitalità dei minorenni stranieri non accompagnati, ha aggiunto Piantedosi a proposito di un'altra richiesta pervenuta dal territorio. Stasera a Trieste il ministro firmerà un protocollo sulla sicurezza con il presidente Massimiliano Fedriga, che ha sottolineato il ruolo della regione nell'accelerare il trasferimento della questura di Gorizia. A proposito delle proteste legate allo sciopero per Gaza, il ministro si dice favorevole a garantire la libertà d'espressione. Il discrimine tra manifestare, come giusto che sia, qualsiasi cosa e fare altro tipo di azioni sta nel non usare violenza e non negare i diritti altrui. Gorizia, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Bandiere palestinesi e dell'USB e qualche fumogeno davanti al varco per il porto di Trieste durante il presidio indetto dal sindacato di base per chiedere lo stop all'uccisione dei civili a Gaza e nella Cisgiordania, presidio che ha bloccato l'accesso al porto ai tir che vengono deviati. La giornata di sciopero generale contro la guerra e il genocidio in Palestina indetta dall'USB è iniziata la mattina presto con docenti e personale ATA, ma anche molti studenti hanno scelto di non presentarsi in classe. Al Carducci Dante l'invito della preside ad entrare e discutere del tema della guerra in classe, invito declinato con forza dai ragazzi, e la preside Carmela Testa ha detto comunque l'assenza sarà giustificata. La protesta poi si è concentrata nel cuore produttivo e logistico della città, il porto di Trieste, al varco 4, con un presidio iniziato alle ore 10 e che appunto ha proseguito. Noi siamo con Sasha Colautti qui proprio al varco 4 del porto dell'esecutivo nazionale dell'USB e c'è tanta partecipazione, ci sono anche le scuole. Il fatto di aver scelto il varco 4 del porto di Trieste, perché? Il varco 4 è uno dei cuori centrali di parte del commercio che avviene verso e dallo Stato di Israele. È chiaro che noi non possiamo stare a guardare quello che sta succedendo a Gaza City, in tutta la Palestina, in Cisgiordania è in corso un genocidio. Noi siamo qui perché vogliamo che il nostro governo intervenga, che blocchi tutti gli accordi commerciali con lo Stato di Israele. Quello che sta avvenendo deve finire. Siamo qui anche perché tutta l'Italia in questo momento e anche l'Europa è trascinata in una pesante economia di guerra, con rincari, impatti su bollette, stipendi, salari che si abbassano e che non recuperano il potere d'acquisto, perché il governo e l'Europa fanno una scelta: ci stanno trascinando in un'economia di guerra e non possiamo pensare che quello che succede in Palestina non tocchi direttamente anche noi. Sasha, le chiedo, è interessante che ci siano i ragazzi, che spesso si dice i ragazzi non partecipano alla vita politica, qui ci sono. Questo è un segnale molto positivo, e nessuno rimane indifferente alle immagini dell'orrore che arrivano da Gaza. C'è un ritorno, secondo me, anche di una cultura che deve essere insegnata nelle scuole. Penso che la partecipazione di oggi dimostri che c'è un vento di cambiamento e noi questo vento vogliamo assolutamente soffiarci sopra. Il fuoco di vampa. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Nel Tarvisiano gli usi civici della foresta sono amministrati dal Fondo Edifici di Culto del Ministero dell'Interno. I rapporti tra gli aventi diritto alla servitù del legnatico e il Fondo Edifici di Culto nell'ultimo biennio si sono incrinati a tal punto da portare alla mancata assegnazione del legno nell'ultimo biennio. Un tema che è emerso anche nel corso della cerimonia per i 40 anni del Fondo, al quale è attesa la partecipazione del ministro Piantedosi. Dentro Palazzo Veneziano a Malborghetto la cerimonia per i 40 anni del FEC, il Fondo Edifici di Culto del Ministero dell'Interno, alla presenza del ministro Piantedosi, del ministro Ciriani, del presidente Fedriga e del viceministro Vagnagava. Fuori, in due sit-in distinti a Ugovizia, a poche centinaia di metri dal convegno, una protesta di trattori organizzata dai consorzi e dalle vicinie, associazioni tra aventi diritto di servitù sulle foreste di Tarvisio. I striscioni recitano: anche noi siamo biodiversità, foresta e diritti di servitù, economia di sussistenza e manutenzione del territorio. Il nodo è quello dei secolari diritti di servitù della Val Canale sul prelievo del legname. La popolazione della valle non è proprietaria dei terreni sui quali vive e lavora. Nell'ultimo biennio però i rapporti con il reparto carabinieri forestali, che gestisce il bene comune, si sono incrinati. Frizioni culminate nel mancato accordo e mancata assegnazione per gli anni 2024 e 2025 dei diritti di servitù di legnatico, di epoca austro-ungarica e tuttora vigenti. Un fatto definito senza precedenti nella storia recente: solo con la guerra i diritti erano stati sospesi. Uno dei fattori scatenanti della protesta sta nel rinnovo del prezzo di sudditanza, ovvero il valore di mercato del legname in piedi. Quello proposto è più del doppio del prezzo pagato fino al 2023, indica Maurizio Lattisi, presidente della vicinia di Camporosso. Le ditte boschive sono ferme, non vengono emessi dei lotti e noi siamo senza lavoro, ma abbiamo dipendenti e famiglie da sfamare, dice Davide Deotto, impresario del legno di Valbruna. C'è un grosso quantitativo di abete postricato che andrebbe inoltre abbattuto. C'è infine un tema di sfruttamento delle foreste per il turismo. In anni di collaborazione stretta, conclude Lattisi, si trovava sempre un accordo per realizzare rami di pista. Ora invece non si investe più nelle costruzioni di nuovi impianti in quota, dove la proprietà è del FEC. In una lettera fatta recapitare al ministro Piantedosi si chiede l'avvio di un confronto tra il ministero e i presidenti dei consorzi vicinali, auspicando, in caso di controversie, l'utilizzo della via negoziale piuttosto che giurisdizionale, sottointeso come avviene ora. Malborghetto Valbruna, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Il cardinale Zuppi, presidente della CEI, sarà oggi a Gorizia, dove aprirà i lavori della riunione del Consiglio Episcopale. La consueta sessione autunnale quest'anno su invito dell'arcivescovo Monsignor Redaelli è ospitata nella città, designata insieme a Nova Gorica, capitale europea della cultura per il 2025. Una scelta che contiene in sé il messaggio di pace e integrazione, due temi che faranno anche da filo conduttore ai lavori del Consiglio che si apriranno alle 16.30. Martedì si svolgeranno due appuntamenti di particolare rilevanza. Dalle 18 alle 19.30 l'incontro con i vescovi delle conferenze episcopali slovena e croata e alle 20 in piazza Transalpina la veglia di preghiera per la pace nel mondo, alla quale prenderà parte una rappresentanza di giovani italiani e sloveni. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle risorse agroalimentari e forestali Zanier, ha disposto di chiedere al Ministero delle Politiche Agricole la dichiarazione di eccezionale calamità naturale per la grandinate del 26 giugno e il 12 luglio scorsi. Nello specifico, a giugno furono investiti i territori comunali di Bicinicco, Castions di Strada, Lestizza, Mortegliano, Pozzuolo del Friuli e Santa Maria la Longa, mentre il maltempo di giugno colpì Pocenia. I danni stimati per le colture dei comuni così delimitati ammontano a oltre 9 milioni di euro per Pocenia e oltre 27 milioni di euro per i restanti comuni interessati. Le imprese agricole danneggiate dovranno presentare le domande di indennizzo all'Ispettorato regionale dell'agricoltura della Direzione Centrale Risorse Agroalimentari entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale. L'assessore evidenzia comunque che sarà ben difficile ottenere un ristoro anche qualora venga riconosciuto lo stato di eccezionalità, in quanto i danni da avversità atmosferica sono per legge assicurabili con agevolazioni e non indennizzabili. Un uomo residente a Nimis è indagato perché dopo essere andato in pensione non aveva riconsegnato l'equipaggiamento del corpo forestale per cui aveva lavorato e avrebbe utilizzato attrezzature e capi di abbigliamento, compreso lo stemma distintivo, in modo illecito per vantaggi personali. A scoprirlo il Corpo Forestale di Attimis e la Guardia di Finanza della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Udine, a seguito di due episodi segnalati. Ad agosto del 2023 un uomo si era spacciato per capo della forestale di fronte a tre ragazzi in vacanza che sul sentiero degli innamorati a Monte Maggiore di Taipana avevano visto un capriolo morto, subito prelevato nel bagagliaio dal finto forestale. Ad agosto 2024 poi l'uomo aveva accusato un cittadino di Nimis di asportare legname in modo abusivo, sempre presentandosi come comandante della Guardia Forestale. L'uomo è ora indagato per possesso di segni distintivi contraffatti. 12.42 in meteo, nuvolosità variabile su tutta la regione, il tempo si sta guastando, le temperature registrate poco fa, Trieste 24 gradi e mezzo, mare quasi calmo con la stessa temperatura, a Gorizia 23 gradi, Udine 22 gradi e mezzo, Pordenone 22 gradi, Tolmezzo 19, Tarvisio 18, Forni di Sopra 17, Piancavallo 15 gradi e mezzo, Sappada 13 gradi e mezzo, Sullussari 12 gradi, sullo Zoncolan 11, a Lignano 24 gradi e mezzo, a Grado 24 e temperatura del mare in laguna 24 gradi. Le previsioni dell'ARPA regionale per oggi pomeriggio: cielo nuvoloso, rovesci e temporali sparsi probabili su tutta la regione. Sulla costa, specie occidentale, e in quota sulla zona montana soffierà vento moderato da sud. Presentata poco fa alla Fiera di Udine l'edizione 2025 di Casa Moderna. Sentiamo le novità. Il focus espositivo centrale di Casa Moderna quest'anno, in particolare centrato sull'impiantistica, i materiali, le tecniche, le tecnologie e tutte quelle soluzioni per rendere lo spazio abitativo piacevole, ma soprattutto efficiente e sostenibile. Sarà una fiera come sempre al passo coi tempi, oggi sempre più digitali, con grande attenzione alla domotica, ma con uno sguardo anche sulle politiche abitative, sulle nuove agevolazioni casa. Nuovo il marchio, cambiano anche i tempi e gli spazi di Casa Moderna edizione 72, anticipa in conferenza stampa il presidente di Udine Esposizioni di Piazza, spiegando segnando una evoluzione e novità. Si sperimentano 5 giornate anziché 9 nella prospettiva di arrivare a una possibile apertura su 2 weekend consecutivi. Stand e padiglioni riorganizzati e rinnovati per i 150 espositori dall'Italia e 50 dall'estero presenti. Nelle stesse giornate della Fiera dell'Abitare, dal 2 al 6 ottobre, dopo il positivo esordio dello scorso anno, torna l'abbinata con saperi e sapori Friuli Venezia Giulia, vetrina delle eccellenze artigianali ed enogastronomiche della regione, con 35 espositori, protagonisti del saper fare, produttori col meglio dei loro prodotti anche a chilometro zero e a marchio Io sono Friuli Venezia Giulia, capitanati da Promoturismo. Per l'assessore regionale attività produttive Bini, che il 2 ottobre inaugurerà Casa Moderna in tandem con saperi e sapori, un accostamento vincente in grado di dare visibilità alle nostre filiere produttive e attrarre visitatori, ricco anche quest'anno grazie ai numerosi partner e sponsor, il programma di eventi collaterali di Casa Moderna, tra convegni di approfondimento delle tematiche emergenti legate all'abitare, mostre d'arte, laboratori creativi anche per i più piccoli, gare di murales, corsi di fotografia di interni, consulenze d'arredamento con architetti per la cura del verde con giardinieri e nello spazio della filiera legno per l'uso consapevole della stufa con esperti e sfilata finale degli spazzacamini. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Il battiscafo Trieste, protagonista nel 1960 della storica immersione nella Fossa delle Marianne, sarà ricostruito nella sua copia fedele ed esposta in Piazza Unità a Trieste tra una settimana. La presentazione alla cittadinanza del progetto Bentornato Battiscafo Trieste questo pomeriggio alle ore 18 alla Sala Lutazzi nel magazzino 26 del Porto Vecchio. Il pubblico potrà ascoltare il racconto e le anticipazioni del regista Massimiliano Finazzer Flori, che mostrerà alcune immagini tratte dal docufilm in corso di realizzazione, un lavoro che ripercorre la complessa ricostruzione del battiscafo e ne restituisce il valore simbolico e identitario. La copia in scala reale del battiscafo, dopo la mostra in Piazza Unità, troverà la collocazione definitiva al Museo Civico de Henriquez. Il progetto è stato sostenuto dal Comune di Trieste. Parliamo di libri. Dietro le sbarre, le donne detenute in Italia rappresentano circa il 4% della popolazione carceraria, ma ciò significa che hanno anche spazi ristretti e spesso sono rinchiuse in luoghi lontani dalla loro provenienza. Nella casa circondariale triestina, dove c'è la sezione femminile, l'associazione COPERSAM, Conferenza per la Salute Mentale nel Mondo Franco Basaglia, con il sostegno della regione, ha realizzato da marzo a settembre un laboratorio di lettura e scrittura per la socializzazione e l'emancipazione delle donne detenute. Da questo progetto è nata anche la pubblicazione Noi donne del quarto piano, che raccoglie i contributi delle donne che hanno partecipato al laboratorio e che sarà presentato oggi pomeriggio alle 17:30 presso il Circolo della Stampa. Fabiana Martini ha condotto il laboratorio insieme a Elisabetta Lippolis. Le abbiamo chiesto come hanno accolto le donne detenute in questo laboratorio di lettura e scrittura e che cosa ha portato allo scoperto. L'hanno accolto molto bene, anche perché c'era già un'esperienza pregressa che avevamo fatto nel 2023 e anzi erano state proprio le donne a chiedere che si potesse continuare, si potesse fare una nuova proposta. Naturalmente, come è noto, c'è un certo ricambio all'interno della casa circondariale di Trieste, in particolare per quanto riguarda la sezione femminile, però in realtà alcune persone le abbiamo ritrovate con l'entusiasmo appunto di 2 anni fa e hanno partecipato ognuna al modo loro, qualcuna in maniera più costante, qualcuna meno, però poi passando la voce, invitando a loro volta le compagne. È stato fondamentale e incredibile anche vedere come le parole riescano veramente a rafforzare l'autostima, a darti gli strumenti proprio per ripensare in maniera diversa al tuo passato, ma anche per immaginare un futuro diverso. Questa volta la pubblicazione che ne è nata è opera loro proprio al 100%, dalla scelta del titolo ai pezzi che hanno scritto, alla punteggiatura, alla collocazione nel volume che ne è uscito, e questa è stata una grande soddisfazione per loro, ma anche una grande gioia per noi che le abbiamo accompagnate. Ecco, la pubblicazione si presenta, ma si potrà anche acquistare, leggere? Ma noi ne abbiamo fatte grazie appunto a un progetto finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ne abbiamo stampate un certo numero, quindi confidiamo che chi desidera potrà insomma averne una copia, se poi sarà necessario eventualmente la ristamperemo, quindi oggi pomeriggio al Circolo della Stampa per chi verrà e vorrà averne una copia, insomma pensiamo che sarà possibile accontentare tutte e tutti. Non è in vendita, non è previsto che lo sia, però insomma ne abbiamo fatto un certo numero. Presentato stamattina alla Società Filologica Friulana di Udine il programma di Lengis, il primo festival del teatro delle lingue minoritarie. Laboratori per attori, in partenza già da oggi, spettacoli e convegni al via dal 30 settembre a Udine, Gorizia e Nova Gorizia. Ne parliamo con Massimo Somaglino, direttore artistico del Teatro Stabil Furlan. È impossibile raccontare tutto in poco tempo. Diciamo che ci sono tante cose e sono divise fondamentalmente nelle categorie di spettacoli. Ci sono 6 compagnie che vengono da 6 luoghi dove si parlano lingue minoritarie dell'Europa che presentano i loro spettacoli. Ci sono laboratori, e cioè 3 maestri che anche questi vengono da fuori, che realizzano 3 laboratori per gli attori della nostra regione e delle zone circostanti, e poi un sacco di eventi collaterali, gli incontri con i maestri, dibattiti, presentazioni di libri, un paio di ospitalità interessanti con altre strutture della regione che svolgono attività simile, perché le lingue minoritarie vorremmo che recuperassero la loro dignità. Oggi abitiamo un'Europa in cui il rapporto fra gli stati è sempre più difficile, allora cerchiamo di costruire un buon rapporto fra i popoli, e la prima cosa ovviamente è conoscerli. Il 14% degli europei parla una lingua minoritaria, si tratta di 50 milioni di persone, quindi è tanta gente. Diamo voce anche alle lingue più piccole, perché ogni lingua, ogni cultura contiene dei tratti di originalità che è un disastro perdere, perché ci trasformeremmo in un pensiero unico, un unico modo di vedere il mondo, e non ce lo possiamo permettere. L'Agicom da fine agosto ha messo in campo un provvedimento per bloccare le chiamate moleste che riceviamo ogni giorno, un filtro anti-spoofing applicato sui finti numeri di telefono fissi usati per contattarci. Nell'edizione di Buongiorno Regione abbiamo fatto un bilancio con i primi dati comunicati dall'Authority. In meno di un mese sono stati bloccati 43 milioni di telefonate, pari circa al 6% delle chiamate che ciascun utente riceve ogni giorno. Sono i dati diffusi dell'Agicom, che fa un primo bilancio dell'operazione messa in campo a fine agosto per dare un freno alle telefonate moleste del telemarketing, vero e proprio tormento per i cittadini e che spesso nascondono tentativi di truffa. Per farle si servono della tecnica dello spoofing, cioè camuffano il numero reale con un numero finto creato per l'occasione. Nelle ultime settimane queste chiamate sono anche aumentate, ma i filtri introdotti hanno permesso di bloccarle. Per ora ci si è limitati a quelle che usano finti numeri fissi, ma a breve saranno estesi. La presidente dell'Associazione Consumatori Attivi, l'avvocata Barbara Puschiasis. Dal 19 di novembre verrà inserito un nuovo blocco che sarà invece rivolto ai numeri di cellulare esteri, quindi se adesso il filtro è operativo solo per chiamate che riguardano numeri di telefono fissi, dal 19 invece di novembre questo filtro riguarderà anche telefonate spoofing che provengono da numeri di cellulare esteri. Oltre al disturbo, queste chiamate provocano danni economici molto gravi. Parliamo di milioni di euro dei cittadini che vanno a finire non si sa dove, spesse volte all'estero, spesse volte verso organizzazioni criminali. Le truffe più diffuse sono proprio quelle relative appunto all'attivazione di contratti non richiesti, ma anche truffe attraverso le quali si cerca di carpire sia dati personali dell'utente sia i soldi sul conto corrente depositati dall'utente. Mai quindi comunicare i propri dati, mai dire di sì e mai consegnare codici particolari come quello OTP, e se ci sono dubbi è meglio prendere tempo e controllare. Chi viene truffato, oltre a perdere denaro, rischia di perdere anche autostima. Proprio per questo sarà inaugurata a breve la Fondazione Tonutti, che offrirà soprattutto supporto psicologico alle vittime per aiutarle a superare la vergogna di essere state ingannate. la presidente della fondazione Maria Teresa Tonutti. Purtroppo può capitare a tutti, diciamo a ogni livello, quindi parliamo di imprenditori, parliamo di dirigenti, parliamo di gente diciamo comune. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Si respira aria di campionato del mondo allo Yacht Club Adriaco e a Trieste, che per la prima volta ospita il campionato mondiale di Melges 24, avendo ricevuto il testimone da San Francisco. Oggi pomeriggio alle 14 la Practice Race, da domani fino a sabato previste 12 prove. In attesa del colpo di cannone che aprirà domani alle 12.30 il campionato, lo Yacht Club Adriaco ha donato alla città 16 ciliegi giapponesi, uno per ogni nazione iscritta al mondiale. Gli alberi sono stati piantati sulle rive di Trieste, a pochi passi dal club. Nicolò De Manzini, presidente del club, ha voluto ringraziare il supporto convinto di tanti soggetti, in primis il comune di Trieste, che hanno fortemente voluto portare in città l'evento. È la prima volta in 30 anni di storia di quella che è considerata la regina delle classi monotipo che un campionato mondiale Melges 24 giunge in Adriatico, ha detto. Rai Radio 1 trasmetterà dalle 17.30 alle 19 lo speciale GR1 sull'inaugurazione a Napoli dell'anno scolastico alla presenza del Capo dello Stato. Pertanto l'edizione del giornale radio regionale delle 18.30 non andrà in onda. Quindi la prossima edizione rimane comunque alle 15. E con questa notizia di servizio vi ringraziamo dell'attenzione per questo giornale radio che è stato redatto e condotto da Livia Liberatore e Nada Cioc, con la collaborazione tecnica di Viola Romanese e Pasquale Nocera. Ha collaborato in redazione Samantha Gonda. Tutti noi l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.